E allora, come vi ho annunciato, la seconda telefonata di oggi l'avremmo fatta con Taranto, una Taranto assolutamente bollente, non per sì, anche sicuramente per il caldo, ma soprattutto per quello che sta succedendo all'Ilva, una fabbrica di cui appunto abbiamo parlato ultimamente, insomma abbiamo visto quali sono state le richieste degli operai, qualcuno cercava di esattamente usare le parole degli operai come se volessero così la morte ecologica di Taranto, quando invece poi abbiamo sentito che ci sono delle ragioni ben forti. Allora, noi siamo al telefono con un compagno a cui io intanto vorrei chiedere, diciamo, degli ultimi eventi, di quello che è successo negli ultimi giorni, della contestazione, casomai senza andare troppo indietro nel tempo, visto che comunque questa radio bene o male la questione l'ha seguita. Diciamo, mi piacerebbe sapere, insomma, quella che è stata la contestazione, anche la risposta degli operai e poi che cosa è successo dopo tutto questo. Beh, intanto un saluto a tutte e tutte che sono le compagne e i compagni che sono in ascolto. Ciao, sono Salvatore della Confederazione Cobas e niente, appunto evitiamo tutto il passato. In effetti però ti dice una cosa molto giusta. In realtà mediaticamente è riuscito un po' Taranto come se fosse la città dei matti, tutti filo padrone, gli operai in particolare e quant'altro. Invece diciamo che in realtà c'era chi lavorava da tempo in altra direzione, compresi ovviamente operai dell'Ilva, che hanno pagato duramente con forme di mobbing e quant'altro. Insomma, il fatto di denunciare puntualmente quello che accadeva in quel posto di lavoro. Ti dico, la cosa estremamente interessante è che questa manifestazione di oggi, che è stata programmata settimana scorsa, e chiaramente ha visto immediatamente noi, ma un'area sociale molto larga, varie componenti, diciamo varie umanità, insomma, no? Che per anni si sono battute per queste questioni, immediatamente con un tam tam rapidissimo, come dire, lunedì vederci in piazza, fare un'assemblea in piazza per organizzarci per questa manifestazione. Immediatamente in serata già era pronto sia un comitato, abbiamo creato questo comitato perché qui chi è colpito da queste cose sono le famiglie, ma sono i vitivinicoltori, i pescicoltori, guarda, di tutto di più, insomma, oltre che gli stessi operai e quant'altro. Ripeto, la presenza di operai Ilva in questo comitato è estremamente sintomatica, come posso dire. E sai, in serata abbiamo mandato un comunicato stampa individuando le precise responsabilità di Riva e di quanti altri, le precise complicità sia di parte sindacale che di parte politica, no, rispetto a questa questione. Quindi con una chiarezza, voglio dire, su tutto il fronte, senza infingimenti, senza unanimismi pro Riva, che sostanzialmente è stata bene accolta, perché poi noi, dico, martedì e mercoledì abbiamo fatto due iniziative di piazza e c'era un bel po' di persone, sono un centinaio di persone, c'era, no? Quindi questo a me personalmente dava un buon segnale, ma anche gli stessi volantinaggi fatti in città e in fabbrica, come dire, quella parte carsica che magari anche per paura si era spostata, perché vada bene, quando questi si muovevano per sostenere Riva, poverino, no? Chiaramente prima di tutto facevano sciopero, però era a carico dell'azienda lo sciopero, che è già una follia. Quella addirittura mettevi i pullman per far scendere le persone, cioè veramente una cosa abominevole, non dico mai vista, no, perché è già accaduta, ma sinceramente, voglio dire, cadi e capetti tutti immediatamente mobilitati, insomma, ovviamente minacciavano chi non faceva certe azioni pro Riva, no? Quindi chi non si muoveva secondo gli ordini. Anche lì. Capisci, no? Quindi questa era la situazione nella quale si muoveva. Beh, ti dico che per esempio ieri avevamo già notizia che durante un'assemblea un confederale è stato, diciamo, ecco, benevolmente, dico, come posso dire, senza esagerare, è duramente contestato, ecco, diciamo così, va bene? Ecco, molto duramente contestato. Quindi evidentemente c'è una rabbia, cioè, perché è chiaro che qui abbiamo tutti, dico tutti, un morto in famiglia. Ma quando parlo di morti in famiglia non parlo di cugini lontani, parlo fratelli, sorelle, padri, figli, madri, figli, consigli. Tieni presente che io voglio ribadire questo dato perché all'ascolto è un dato estremamente sintomatico e soprattutto può essere veramente una spia per capire la realtà che viviamo. Taranto in Europa è stata verificata come la città che ha più problemi agli apparato respiratorio in pediatria, quindi è un dramma vero. Quindi noi parliamo qui di migliaia di morti per patologie assolutamente compatibili, insomma, con l'emissione di diossina, insomma Seveso, Taranto rispetto a Seveso, se vuoi Seveso rispetto a Taranto, sono, cioè Seveso è proprio una sciocchezzuola, insomma, quello che accade, pure ricordiamo cosa accade giustamente e legittimamente in quegli anni rispetto con le emissioni di diossina. Ora, tornando a dire, quindi in 3 giorni praticamente, sai, c'era sempre il timore che appunto questa fretta, condizionata anche da una campagna mass mediatica vergognosa fatta in questi 3 giorni, come se saputo si faceva sto spezzone, diciamo, che era dissenziente dalle posizioni ufficiali unanimistiche, e con cui si diceva che praticamente sarebbero scesi più o meno i barbari, comunemente poi denominati black bloc, notav, anarchici, antisociali, un classico proprio atteggiamento terroristico verso le famiglie che magari avrebbero voluto pure partecipare, insomma, a questa manifestazione, anche io dico nella parte legata a CGIL, CISL e UIL. No, la cosa bella è in realtà che è stata questa, che va, a parte essere uno spezzone più ovviamente più visibile, fin qui c'è niente di strano, però la gente si è aggregata, no? Sulle tematiche, sul volantino, sulle cose che si diceva attraverso microfono, e bada, questo è accaduto in un percorso che non è neanche di 1 chilometro, insomma, il percorso del corteo dal concentramento fino alla piazza, insomma, della dove c'erano i comizi finali. Ricordo a tutte e tutti che c'erano Camusso, Angeletti e Bonanni, questo per capire chi c'era là. La triade. Capisci l'attenzione, no, che c'era nel merito, voglio, certo, dire, no? Bene, ti dirò, è stato molto bello perché da un lato i partecipanti al corteo, era un po' di tempo non si vedeva una manifestazione così determinata negli occhi, negli atteggiamenti di tutti, era molto trasversale da un punto di vista di età, veramente, insomma, come dire, proprio si sentiva un'aria molto positiva, molto molto molto propositiva, ovviamente nell'incazzatura e nella rabbia, insomma, no? Certo. Di chi ancora sostiene Riva, non li vuole far pagare i danni di questo, di questa devastazione, come dire, no? Chiaramente noi coniugando poi quello che sono gli elementi, noi tant'è vero che abbiamo deciso di andare con un unico striscione senza ferma e abbiamo visto tutto e stato questo striscione, cioè sia i diritti, no ai ricatti, 2 punti, occupazione, ambiente, reddito, salute, senza priorità ovviamente, insomma, erano i 4 punti centrali, certo, no? Che su questo riuscivano a tenere dentro una realtà come questa del sud, no? Che ha questa grande cattedrale nel deserto, che però ha distrutto ogni altro tipo di economia, perché se tu pensi che sono stati distrutti in questi giorni, non so, qualcosa come, ma non so quante migliaia e migliaia e migliaia di tonnellate di cozze nere, quindi hanno mandato sul lastrico centinaia di famiglie, di viticoltori, ma i pescicoltori, ma hanno dovuto uccidere, perché nel raggio di 20 chilometri dall'Ilva ci sono problemi sia per quanto riguarda l'agricoltura, sia per quanto riguarda soprattutto le pecore, che sono nate in alcuni casi proprio, sembravano geneticamente modificate, per capirsi, cioè tipo come se ci fosse una centrale nucleare, cioè, esatto, quindi, lo stavo per dire, ovviamente, esatto. chi tipo come me, cioè, qualche annetto ricorda cosa successe quando ci fu la fuoriuscita di diossina a Seveso, cioè nascevano bambini, come dire, con malformazioni, e lì sono nate pecore con malformazioni, quindi anche agricoltori, ovicoltori, che sono finiti sul lastrico letteralmente grazie, diciamo, a queste emissioni. Quindi diciamo, questo quadro, come dire, abbastanza devastante, ovviamente abbastanza devastante, quindi credo che c'è stata tante persone, come dire, compresi i lavoratori, che, come dire, hanno recepito perfettamente questo messaggio. È chiaro che noi mai diremo che è giusto mandare a casa 20.000 persone tra diretti e indotte, ci mancherebbe, non siamo mica matti, ma altrettanto non si può subire un ricatto per cui per lavorare devi morire tu, perché poi sei il primo che stando in fabbrica, no, come dire, subisci, a parte, come dire, la repressione aziendale, quello è un lager più che un luogo di lavoro, anche, come dire, la devastazione ambientale all'interno e poi la subisci pure all'esterno, ma questo riguarda appunto la tua famiglia e quanti altri, ecco. Ora, è stato estremamente interessante questo fatto, dicevo, da un lato questa determinazione, dall'altro una, diciamo, una platea attenta, che non fosse ovviamente dei soliti funzionarietti e quant'altro. Ti dico, se passiamo ai numeri, ti faccio dei numeri molto veri, non ho necessità di non fare questi numeri, eravamo credo un migliaio, cioè è una cosa abbastanza inaspettata anche per noi, eravamo pochi, e che si è ingrossato, dicevo, durante il corteo. Ovviamente quando tu leggerai che erano 5.000, basta vedere le immagini TV, se erano 5.000 quelli che stavano in piazza, quando ci siamo arrivati noi eravamo almeno 2.500, perché metà piazza lo occupavamo, quindi voglio dire, io non voglio sparare numeri politici, come dire, quindi io dico dei numeri reali, e se ribadisco qualcuno parla di 5-10.000, noi eravamo esattamente la metà, forse anche di più, basta, ripeto, guardare le immagini in TV. È stato molto bello, perché è stato molto bello perché in realtà si è aperto un po', come dire, come davanti a Noè, si sono aperte le acque, e hanno fatto passare questo pezzo del corteo che è arrivato fin sotto il palco. Ovviamente non c'è stato neanche chissà quali scontri per tutto ciò, quindi, come dire, in qualche modo carsicamente c'era forse una sorta di solidarietà rispetto, no, questa nostra iniziativa, che poi in realtà era semplicemente voler far parlare uno del comitato, che avesse una, come dire, una posizione dissenziente, no, che è una cosa legittima. Tieni presente, alcuni di loro sono ancora iscritti alla FIOM, eh? Ovviamente quando hanno chiesto la possibilità di parlare non gli hanno manco risposto. Allora in questa città ci siamo semplicemente, al di là poi dei commenti che potranno fare i giornalisti, ce ne può fregare di meno, il diritto alla parola di questa parte della città, che io credo sia, guarda, maggioritaria, molto maggioritaria, voglio dire, che però ha paura a parlare, perché capisci, perché le istituzioni, la politica, le grandi organizzazioni sindacali sono tutti in ginocchio davanti a questo grande mostro e a questo padrone, insomma, questo è il problema. Quindi, sai, non è facile, non è facile assolutamente. Però, capisci, è anche bello stato quando questi qua, poi vabbè, sono scappati, è già una goduria questa cosa qua, considerando le porcate che hanno fatto negli ultimi anni, precarizzando i lavori, cioè veramente devastando il mondo del lavoro, rendendo la precarietà la normalità, la ricattabilità la normalità su qualunque posto di lavoro, e fanno finta di niente, insomma, voglio dire. Ora, c'è stato un appello di una mezza calzetta lì, insomma, non so manco chi fosse, che ha detto, dice, invitiamo tutti i lavoratori a... lì c'è una piazza che è adiacente, sta a 50 metri, c'è un'altra piazza rispetto alla piazza dove c'è il comizio finale, a venire nell'altra piazza, il comizio di CGL, il Lille è finito, invece la piazza è rimasta piena ad ascoltare, e non eravamo solo il nostro spezzone del cortile, c'erano tanti lavoratori che hanno voluto ascoltare anche, diciamo, il nostro punto di vista, fra tarantelle, con i carabinieri, i poliziotti che si sono messi i caschi in testa, ma ripeto, non è successo veramente nulla, ma nulla successo, cioè veramente niente, insomma, rispetto a tante altre volte che magari diciamo per prenderti la parola, per riprenderti la parola che ti è negata, sai, capita che si va un po' sul pesante, tu giustamente, legittimamente rispondi, certo, insomma, certo, sì, ci mancherebbe altro che non rispondi. Ora ti dico, ma questo probabilmente è dovuto anche al fatto che in realtà non c'è stata una contraddizione con i lavoratori, perché poi l'elemento quale sempre è stato, no? Secondo la logica dei latini, che tu da romano dovresti conoscere bene, divide et impera, il tentativo è sempre stato di mettere in contraddizione la questione occupazionale con la questione ambientale. Certo, ma nei fatti è così, è chiaro, no? È di mettere lavoratori contro cittadini, no? Gli è andata proprio buca di brutto questo, diciamo, tentativo, in particolare oggi, perché io non ho sentito un lavoratore, tranne che qualche galoppino, ovviamente, che hanno un sacco di funzionari, non fanno nulla la mattina e la sera, se non scaldare una sedia e fare i sindacalisti di professione, come dire, però sempre notoriamente al servizio dell'amministrazione e dei padroni, tranne quelli, in realtà il lavoratore è normale. È chiaro che è stato molto, molto attento, io immagino che la campagna contro continuerà, però noi siamo soddisfatti, molto soddisfatti, perché guarda, togliere il microfono a questi signori in una città di provincia, ripeto, parlo dei segretari nazionali confederali, quindi non sto parlando proprio degli ultimissimi arrivati, in una città di provincia, perché tale va considerata, questo se accade a Roma, voglio dire, può essere già una normalità, perché magari c'è un movimento più consolidato, eccetera eccetera, no? Ma se accade a città come Taranto, la cosa non è più tanto, cioè non è proprio comunissima. Peraltro in una giornata in cui l'attenzione era forte. Sì, era molto Taranto, alta, esatto. Era molto alta, cioè praticamente le hai tolto la scena. No, infatti. La scena con le porcate che avrebbero detto e che sarebbero passate nel sentire comune, poi i giornalisti faranno i commenti che vorranno, no, voglio dire, però esce fuori comunque che c'è un dissenso da parte di una parte della città rispetto a queste politiche, che comunque non si deve chiudere, che comunque, perché poi loro parlano di compatibilità, ma tutti sanno che quando loro parlano di compatibilità significa in realtà strafottersene, insomma, della salute delle persone, ma arriva poverino un bel piffero, perché se tu fai 7 miliardi di utili, io pretendo che tu tiri fuori i soldi per riparare ai danni che hai fatto, insomma, e soprattutto, e credo che questa poi sia la prospettiva di questo comitato, noi ci lavorerà, perché poi questa è l'auto-organizzazione sociale, voglio dire, ecco, c'è stato un piccolo esempio di auto-organizzazione sociale, che partendo dal, non dal nulla, perché ripeto c'è tutto un percorso dietro, però che in pochi giorni riesce a costruire un pezzo che, come dire, non si fa togliere la parola, impone, come giusto che si faccia, come dire, un altro punto di vista, che perlomeno questo punto di vista ci abbia la possibilità di esporlo, e soprattutto c'è un discorso sul futuro, perché qui ovviamente già sono arrivati arriveranno 333 milioni per le bonifiche. Un controllo popolare su tutto ciò, sullo sviluppo ecocompatibile di questo territorio, perché qua evidentemente finché ci sarà la monocultura dell'acciaio ci sarà un problema grosso di altre possibilità, come dire, di altro tipo di sviluppo economico, insomma, ripeto, esatto, ecocompatibile, perché chi è stato a Taranto sa, diciamo, c'ha dei punti bellissimi, il turismo potrebbero essere sviluppati, ma la pescicoltura, la mitricoltura, eccetera eccetera, finché ci sarà quel mosso e altri, Eni, Cementir, Marina, è chiaro che no, il problema ce l'abbiamo, e infatti come comitato non ci stiamo ponendo solo il problema dell'Ilva, ma soprattutto ci stiamo ponendo il problema di questa auto-organizzazione dal basso e del controllo dal basso di tutto quello, come dire, che accadrà nel futuro. Io, il fatto che questi siano scappati via dal palco, sì, infatti, al di là della goduria di vecchio compagno come me, insomma, non fatto vecchio, però diciamo i suoi annetti, e sta nel fatto che questo è stato un segnale, cioè qui non avete più dei pecoroni, no, voglio dire, senza offesa per nessuno chiaramente, perché è ovvio che nel momento in cui tu c'hai un ricatto fortissimo occupazionale, è chiaro che non è facile che si creano le condizioni di una ribellione, non diciamo di massa, no, però esatto, oggi forse un segnale c'è stato di questo, no, appunto, quando è un segnale per tutti, non è stata abbandonata una piazza, ma insomma sotto un richiamo, capito, che forse ha capito, esattamente, insomma, perché sanno, la prossima volta potrebbe riaccadere, perché noi siamo ovviamente nell'ordine di idee di continuare su questa strada, tanto è vero che domani ci si vede, no? Poi spiegherò perché non abbiamo fatto oggi l'assemblea del comitato, e lo faremo tanto per iniziare nel rione Tamburi, che è il rione adiacente all'Ilva. Lo faremo in una piazza di questo quartiere, ed è fra l'altro da un punto di vista appunto sanitario il più devastato. Lo faremo in una piazza che è vista 50 metri dalla fabbrica, quindi praticamente è come se stai a fare l'assemblea in fabbrica, voglio dire, ma solo per la gente del quartiere ovviamente. E soprattutto lo facciamo domani, perché domani mattina qui in tribunale si discuterà il riesame rispetto alla ordinanza di chiusura, quindi dovremmo avere anche degli altri elementi di valutazione, certo. Perché in qualche modo si sposta non moltissimo, però sai, un conto che il riesame dice vabbè, qui dovete chiudere, un altro conto che il riesame dice no vabbè, intanto che questo mette a posto, no, voglio dire, può continuare a produrre. Cosa, attenzione, che peraltro sta facendo in questi giorni, nonostante in alcuni posti siano stati messi i sigilli, possiamo definirli dei sigilli virtuali. Perché infatti in realtà, domani sarà abbastanza decisiva la giornata anche in merito a questo. Certo, perché poi non so, poi, diciamo, non so che cosa ci può essere successivamente. Diciamo che ovviamente come comitato, fermo restando i capisaldi dell'auto-organizzazione e del controllo popolare dal basso sulle questioni, cambiano un minimo le strategie, no? Certo. Nel senso che è chiaro che se questi dicono deve chiudere è un conto, quindi deve rimanere aperto un altro conto, cioè ha necessità di studiarti dei percorsi, i tempi, cioè, anche tempi, perché è chiaro, certo. Anche nell'altro giorno ho fatto un'altra diretta con la radio e dicevo attenzione, io non sono così sciocco, no, da pensare, perché non è che qua schiaccio un bottone e si spegne, ci vogliono settimane, forse mesi per spegnere, bene, senti, io non so, ti ringrazio, come appunto tu dici di domani. Abbastanza compendioso sulla, sì, poi io credo che sia importante approfittare anche del fatto di dare la versione, perché appunto i giornali, come tu dicevi, è una situazione quella di Taranto che sotto tanti punti di vista cosa scriveranno, ma francamente ci può fare quindi dire. Ancora di più appunto una radio come questa, il lavoro che fai tu mantenendoci appunto la visione delle cose come sono andate, insomma, in modo che tutti possano sapere un po' come sono andate le cose, quindi io penso che domani sicuramente quindi ci sentiremo, così ci aggiorniamo, sì, anche su chiaramente noi abbiamo assemblea alle 7 domani sera. No, l'unica cosa è, ribadisco un fatto, insomma, io poi non so adesso se è l'esame, può darsi pure che si riservi di decidere, no? Io credo che ci abbiano questa possibilità, cioè che possano non emettere un dispositivo in giornata stesso, questo non è da escludere, però è comunque una giornata importante che li abbiamo un po' spiazzato, perché loro puntavano, questo a mio parere, con questo chiudo, con la giornata di oggi, di fare un'altra paraculata per costringere, come dire, il magistrato di turno, metterlo un po' in difficoltà, no, perché c'è bello l'unanimismo, qua non deve chiudere a qualunque costo, viva riva, certo, e dai, in qualche modo condizioni, insomma, c'è poco, niente da fare, una stampa a senso unico, un mass media a senso unico avrebbe potuto condizionare, chiaramente avrebbe detto vabbè, quello che fa la magistratura fa il suo corso, se ne può fregare di meno, ma ha fatto una cosa normale, che nel dispositivo di sentenza c'è scritto che voi in nome del profitto avete deliberatamente massacrato, sostanzialmente ha detto questo la giudice, avete deliberatamente e scientemente inquinato, sapevate che cosa stavate combinando, quindi 386 morti scientificamente, 386 morti scientificamente accertati come relazionabile alle emissioni di diossine e di quant'altro emette quel luogo di lavoro. Ovviamente noi lo moltiplichiamo per 10, per 20, per 30, certo, forse anche di più, ovviamente correlabili a quello che ha combinato questo mostro, insomma. Questa è la situazione. Vedremo domani, ovviamente, certo, ci teniamo in contatto e cercheremo, insomma, di far sapere sempre, insomma, alle radio di movimento come stanno realmente le cose e che cosa si prova a costruire, insomma, in alternativa, ecco. Va bene, ti ringrazio ancora una volta. Ciao, e allora ci sentiamo prestissimo. Buon lavoro, un saluto a tutte le compagne e i compagni. Ciao. Grazie, un abbraccio, ciao. Ciao.